140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Musica e televisione nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Cinema Anteo, Milano. Ricetta di donna. Alexandra Della Porta Rodiani ha diretto il primo docufilm dedicato a Ornella Vanoni, che dice: raccontarsi è stato facile. Facile, perché io non ho difficoltà a parlare di me, assolutamente mai. Sono sincera e mi piace così. Il titolo del documentario è Ricetta di donna. Lei però ha confessato che c'è un ingrediente fondamentale nella ricetta che non si può imparare, che è il fascino. E per il resto cosa si può mettere in questa ricetta per essere una donna come lei? Ma io ritengo che tanto volontà, tanta volontà, perché io ho lottato molto per fare questo mestiere, per la mia timidezza, no? Mia grande timidezza. E mi chiedevo sempre perché andavo avanti, visto che soffrivo così tanto, però evidentemente ero spinta da una scelta che non avevo fatto, ma da un dono che avevo ricevuto. E vedi, il fascino è una cosa molto rara da incontrare. E il fascino non si impara, ce l'hai, è una fortuna possederlo. E non finisce mai con l'età, mai. Non finisce fino a che non sei morto, stecchito, ce l'hai ancora addosso. Io ho conosciuto gente adulta, molto adulta, come Hugo Pratt, che aveva un fascino infinito, Fraser un fascino straordinario, non c'è niente da fare, è come una calamita. Gino ha fascino con quel carattere di merda che sembra che abbia, che poi in definitiva è buono come un pezzo di pane, ma guai a dirlo, non gli piace. E il fascino proprio mi affascina, il fascino, unito all'intelligenza. Lei ha parlato a cuore aperto anche di amore, del suo amore, delle sue storie sentimentali. Perché è stato molto importante l'amore per me, molto molto importante, una specie di propellente, il gas per andare avanti, no? Le passioni mi servivano per andare avanti. E di passione ne ha ancora molta però, perché ancora... Sì, ma non per gli uomini, ho passione molto, ormai io non ho più intenzione di star male, di soffrire o di avere delle delusioni. Dovrebbe scendere dal cielo uno con l'età giusta e non scamuffo, vecchio scamuffo, come dice mio nipote, intelligente, spiritoso, colto e anche un po' generoso, non ricco, non dico ricco, ma siccome non esiste questo qui, almeno per adesso non l'ho incontrato, va bene così. Io so amare, amo mio figlio, amo i miei nipoti, ho un sacco di amici, l'amicizia per me è importantissima e va coltivata. Come se è lontano io chiamo sempre, se è vicino io chiamo sempre e viceversa, e sono anch'io chiamata dai miei amici. L'amicizia è una cosa che va coltivata come l'amore. Ed è il regalo più importante che abbiamo, perché quella vera non passa mai. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me. E sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morire d'amore insieme a te. A questo punto stiamo ultima domanda, ancora tanta voglia di fare musica però? Io sì, sì, live mi piace troppo. La Belle Aurore, Milano, 1992, un anno fondamentale per l'Italia. Lo racconterà una serie per Sky Cinema, ora in lavorazione, interpretata e pensata da Stefano Accorsi. Qualche anno fa, è da qualche anno che avevo il desiderio di vedere rappresentata l'Italia contemporanea, diciamo. Mi mancava, era un capitolo che mi mancava come spettatore, è stato per me nella mia vita di uomo qualcosa di estremamente importante, cioè da quando ho cominciato ad avere un'età più adulta ad oggi sono sempre stato appassionato di come la vicende politiche del nostro paese hanno evoluto, e quindi avevo questa voglia di vedere raccontati questi ultimi 20 anni di storia. Ne parlai con i nostri produttori, Lorenzo Mieli, Mario Gianani, ne parlammo con Andrea Scorosati di Sky, e tutti ci trovavamo d'accordo sul fatto che era un capitolo che ci sarebbe piaciuto vedere rappresentato. Quindi poi i nostri sceneggiatori hanno fatto questo straordinario lavoro di sia idea di come raccontare il 92, un anno, 10 mesi in 10 episodi praticamente, e poi l'idea originaria era quella comunque di avere personaggi di fantasia che ci permettono una grande libertà di movimento, che sono a un passo dai grandi personaggi storici che restano sullo sfondo. Quindi quando abbiamo cominciato le riprese devo dire che ero molto emozionato, anche teso, perché è un progetto che cresce in me, e poi ormai non solo più in me, ma da tanti anni. A differenza di quello che accade spesso in Italia, cioè con opere per la televisione o per il cinema, in cui si parte da una tesi storica, da un'interpretazione dei fatti o da una sentenza su un periodo storico, voi vi siete invece concentrati sulla cronaca, come in un romanzo storico vista attraverso delle vicende di personaggi immaginari. Sì, diciamo, è vero questo che veniva detto prima, una sorta di Italian tabloid, cioè i nostri personaggi di fantasia, cioè noi non abbiamo voluto fare un film a tesi, sarebbe stato riduttivo, sarebbe stato anticinematografico. L'idea è proprio quella invece di raccontare la vertigine che questi personaggi hanno vissuto in un anno cardine della nostra storia, anno in cui si sentiva che tutto poteva veramente cambiare. Tutto un vecchio sistema, infatti passammo dalla prima alla seconda repubblica, di potere viene messo in crisi soprattutto da un'inchiesta che comunque interpretava lo spirito di un tempo, Mani Pulite, e tanta gente ha visto in questo cambiamento epocale una grandissima opportunità. È l'anno in cui è il primo anno in cui c'è un numero importante di leghisti in Parlamento. È l'anno in cui il Partito Socialista, così come la Democrazia Cristiana, crolla. È anche l'anno delle stragi di Falcone e Borsellino. È l'anno delle bombe. È un anno in cui cambiano tantissime cose. E quindi la differenza con oggi è che allora c'era la speranza che tutto potesse veramente cambiare. Oggi si vive un'epoca, un momento simile storicamente, ma Non c'è più quella speranza, purtroppo. C'è una grande amarezza oggi, mi sembra di capire e di sentire anch'io, ogni volta che c'è un caso che viene fuori di corruzione, sembra sempre l'ennesimo, sembra che non ci sia mai fine al peggio, ecco. Noi siamo quasi coetanei, erano degli anni importanti per noi anche dal punto di vista della nostra formazione personale, insomma attorno ai 20 anni. I ragazzi che hanno 20 anni oggi, secondo te, si trovano a vivere in un periodo di grandi cambiamenti, tu come li vedi? Beh, guarda, io devo dire, penso francamente che ogni periodo di crisi profonda come questo è poi un terreno che sarà fertile poi nel futuro. Quindi, oggi è vero che siamo in un periodo più simile al dopoguerra che non al 92, secondo me. Io nutro sempre la speranza che poi ci sia un cambiamento. Secondo me siamo davanti a un cambiamento epocale mondiale, cioè tutto un sistema economico che ormai non regge più e che va reinventato. Oggi, secondo me, un ragazzo di 20 anni, io penso che quelli che votano, in buona parte molti giovani, abbiano anche votato Grillo. Quindi evidentemente nutrono ancora la speranza che se uno grida forte che non è d'accordo, qualcosa cambierà. Io non entro nel merito se sono d'accordo o meno, dico però, parlo per, secondo me, di un ragazzo giovane, così come molti anche sicuramente hanno votato PD ed erano contenti di farlo. Cioè, io penso che oggi ci sia ancora molta gente che conserva in fondo una speranza, ma soprattutto forse oggi c'è più la voglia di dire davvero basta a un sistema che non, dal quale non ci si sente più rappresentati, né economico né politico. Secondo te lo spirito dei tempi del 92 in qualche modo ha dato forma alla nostra generazione? Secondo me è stato un momento di grande desiderio di cambiamento, ma che poi non è stato un cambiamento epocale come avrebbe potuto, dovuto. Anzi, io penso che oggi, se riguarda quel tempo, non so, ci guardo, forse è stato qualche anno successivo del quale io personalmente ho avuto una risposta al 92, per quanto mi riguarda, quando poi vinse la prima volta Prodi, quello per me era una prima vera risposta di cambiamento. Purtroppo non ha potuto fare tutto quello che avrebbe voluto fare. Adesso aspettiamo e vediamo, sì, è vero, chissà. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa, musica e televisione, insieme nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Studi Rai di via Mecenate, Milano. Arriva The Voice, format di successo mondiale. Da noi è condotto da Fabio Troiano. Lo abbiamo incontrato con il coach Riccardo Cocciante. Ho esitato per tantissimo tempo. Ci sono due ragioni di base. Per prima è sicuramente il fatto che in confronto degli altri format si rovescia il concetto, si parte dalla voce, noi non vediamo assolutamente fisicamente il cantante, questo mi ha detto da lì possiamo ripartire, e soprattutto arriviamo alla seconda ragione che è collegata, possiamo parlarne di questo problema che abbiamo intorno a noi in questo momento, dove costruiamo dei cantanti, certe volte sia fortuna, ma certe volte costruiamo dei cantanti che sono un po' artificiali, costruiti, e quindi non durano nel tempo. Era l'opportunità di parlarne e di dire che è il tempo di andare indietro, di ripartire dalle verità, e da lì si può ricostruire un mondo forse più sano in questo contesto. The Voice è un programma fantastico, è un format umano. Siamo quattro coach, uno diverso dall'altro, ma nello stesso tempo abbiamo, come posso dire, una chimica che ci unisce. Riccardo Cocciante è un poeta, vero? Un grande artista, di grande sensibilità. Quando cantavo esplodevo di una quantità di emozioni che avevo dentro, e un grido disperato per dire ascoltatemi. Come si è trovato alle prese col meccanismo televisivo, che non è proprio della sua storia? Sì, ovviamente non è la mia, il mio contesto, non è la mia, il mio stagno, il mio mare, però è un'altra sfida, ecco. Io ho avuto tante sfide nella mia vita, ricominciare in un altro modo. Notre Dame stessa è stata una sfida perché non funzionava il genere, quindi bisognava buttarsi in un campo minato. E mi butto un'altra volta in un campo minato, dopo tanto tempo. C'est un mot qu'on dirait inventé. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour. Un oiseau qui est dans ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Amo il presente. Giudico sempre il passato e il mio passato, soprattutto in un modo molto severo, perché vivere il presente vuol dire sapere ricreare delle cose, ritentare delle esperienze, rimettersi in gioco, e questa sicuramente è uno di questi esempi. Ma si diverte anche a cantare il blues. I talent show in generale, questo tipo di programmi, hanno sempre lanciato grandi interpreti. Bisognerebbe però cominciare a investire anche sui grandi autori. Potrebbe essere una chance. Allora bisognerebbe forse fare un altro tipo di contestazione, perché i cantanti non vivono senza gli autori e viceversa. Ovviamente sono un complemento, però viviamo una realtà che non permette agli autori di vivere materialmente, perché non ci sono più guadagni in questo contesto, quindi spariscono piano piano i autori puri, dando spazio a cantautori che certe volte fanno delle belle canzoni ma non cantano benissimo, oppure cantano benissimo ma non fanno delle belle canzoni. Quindi bisognerebbe trovare un modo, secondo me, oggi di ridare una vitalità a tutto il nostro mestiere, dare importanza e dare la possibilità di vivere al cantante, che vabbè, può farlo perché fa delle serate, però all'autore dei testi, all'autore della musica, ai produttori, a tutta una varietà di gente che sta intorno. Questo lo fa il Grammy in altri paesi, ma noi non ce l'abbiamo. Ecco, questo per me è una cosa che si dovrebbe ristabilire in Italia. Tu conosci molto bene la realtà italiana e anche quella francese. In che cosa può darci dei suggerimenti la Francia, visto che l'industria musicale italiana sta faticando davvero tanto? La Francia protegge l'arte. Protegge l'arte in tutti i sensi. Noi vediamo anche il cinema, guarda, per esempio, no? Noi avevamo un cinema meraviglioso. Poi l'Italia non ha protetto questa cosa e sta scendendo sempre di più. La Francia sta salendo. Sta facendo delle produzioni formidabili perché è aiutata economicamente, a livello anche di trasmissione in televisione ci sono degli aiuti che si possono vedere. Ecco, questi aiuti dovremmo averlo anche noi, ce l'hanno i francesi. Aiutiamo la nostra musica a crescere, aiutiamo l'underground a vivere. Ci credo molto nelle nuove tendenze, anche quelle più ardite, no? Però amo molto La proposta, quella che mi graffia, che mi fa anche male, però che mi graffia. Ecco, diamo coraggio a questi ragazzi, perché sennò più andiamo avanti, questi ragazzi si sentono scoraggiati e vanno nella moda. E per me un cantante deve andare contro la moda all'inizio per creare la propria moda. Ecco, io lo vedo così. Basta con le cose artificiali, torniamo al succo. Il succo è una voce, un testo, una melodia, un piccolo accompagnamento. Ogni cantante dovrebbe cominciare a dirsi perché canto. Per il successo? No. La voce è amore, è rabbia, è passione, è protesta, è il riassunto della tua vita. Buonasera e benvenuti a The Voice, la prima competizione musicale dove conta solo la voce. Stasera quattro grandi artisti hanno una missione: scoprire la voce del futuro. Fabio, perdonami, ma come ti senti a presentare Raffaella Carrà? Perché, insomma, tu non fai il presentatore. Lei qualche esperienza ce l'ha? Sì, giusta un pochino rispetto a me. No, vabbè, è un'emozione. Cioè, già solo che dici Raffaella Carrà, già quando lo dici ti prende male. Poi, cioè, presentarla è una bella emozione. Ma presentare lei come presentare tutti. Sono quattro artisti incredibili, quindi è una grande emozione. Ma ti ripeto, noi abbiamo registrato e abbiamo fatto già delle puntate, e ogni volta che li presento, come prima l'ho detto in conferenza stampa, ma non l'ho detto per scherzo, è la verità, ogni volta che li presento mi prende male. Ma per un attore il meccanismo televisivo che sensazione ti ha lasciato? È spiazzante il meccanismo televisivo, perché devi rompere degli schemi che sono diventati ormai automatici per te che fai l'attore. Già solo quello di avere 10 macchine da presa e devi guardare in macchina, cosa che un attore non deve fare mai nella sua vita, cioè, e già questo ti spiazza. E poi i tempi, c'è un copione, appunto, c'è una scaletta, però è tutto, può cambiare tutto da un momento all'altro. Può succedere che mentre stai lì e tu c'hai i tuoi monitor dove c'è scritto, perché in qualsiasi trasmissione televisiva c'è scritto quello che devi dire, che non è che sai 3 ore di spettacolo a memoria, devi essere un genio. Può capitare che mentre stai lì, nero, e tu stai lì e non è che puoi dire scusate, la rifacciamo. No, sei lì e devi andare. Quindi c'è l'imprevisto, che in realtà mi piace, perché l'imprevisto, poi con l'imprevisto ti metti in gioco. Però è anche, c'è la paura, quella al cinema, quando fai le fiction ti puoi permettere l'errore, sbagli, scusate, rifacciamola, rifai 300.000 volte. Qui è buona la prima. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.